Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Buenos Aires con Massimo Carlotto. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. E la città adesso è come una mappa delle mie umiliazioni e fallimenti. Da quella porta ho visto i tramonti e davanti a quel marmo ho aspettato invano. Qui l'incerto ieri e l'oggi diverso mi hanno offerto i comuni casi di ogni sorte umana. Qui i miei passi ordiscono il loro incalcolabile labirinto. Qui la sera cenerognola aspetta il frutto che le deve il mattino. Qui la mia ombra, nella non meno vana ombra finale, si perderà, leggera. Non ci unisce l'amore, ma lo spavento. Sarà per questo che l'amo tanto. Per chi non l'avesse riconosciuto, era Jorge Luis Borges in una splendida poesia dedicata alla sua Buenos Aires, la nostra meta di oggi. Nome Buenos Aires, stato Argentina, abitanti. La città autonoma di Buenos Aires è la capital federal della Repubblica Argentina. La sua superficie di 200 km quadrati concentra una popolazione di quasi 3 milioni di abitanti. Con la provincia si contano più di 12 milioni di persone. Clima. La città ha temperature medie simili a quelle della città di Palermo in Sicilia, sebbene le punte massime siano meno estreme rispetto al capoluogo siciliano. La temperatura media del mese più freddo è di 5,5 gradi centigradi, quella del mese più caldo 25,5 gradi. Moneta. Peso argentino. Un euro equivale a circa 3,30-3,70 pesos argentini. Fuso orario. Meno 3 ore rispetto al meridiano di Greenwich, meno 4 ore rispetto all'Italia, 5 quando è in vigore l'ora legale. Aeroporti. Buenos Aires è servita dall'aeroporto internazionale Ministro Pistarini di Ezeiza, situato a 35 km a sud-est dalla città dell'aeroporto nazionale Aeroparque Jorge Newbery, situato in città, dove arrivano voli provenienti dall'Uruguay e dal resto dell'Argentina. Sono atterrata all'aeroporto di Ezeiza in compagnia di Massimo Carlotto. Da qui comincia il nostro giro per questa città magica, come la definisce lui. Ma io credo che Buenos Aires sia una città veramente magica, perché è possibile fare una continua andata, un continuo ritorno rispetto alla memoria e anche al presente. È la prima cosa che si sente quando scendi dall'aereo all'aeroporto di Ezeiza è questo misto di odore di cherosene e di carne arrosta e di asado. Però io vorrei raccontare Buenos Aires attraverso una strada che è Avenida Rivadavia. Avenida Rivadavia è la strada più lunga del Sud America e attraversa da nord a sud la città di Buenos Aires. E questa la particolarità è che io l'ho percorsa molte volte con molti mezzi, dall'autobus al taxi, anche grandi pezzi a piedi, perché lì c'è tutta Buenos Aires, è concentrata la memoria, concentrato presente, nel senso che per esempio si vede da come sono fatti i marciapiedi, e quindi i marciapiedi riportano a epoche ben precise. Poi uno alza lo sguardo e guarda i palazzi, e i palazzi sono un misto di palazzi europei, nel senso che per alcuni tratti sembra di essere a Parigi, alcuni tratti sembra di essere in Germania. A seconda delle comunità che vi abitavano si trovano tutti questi cose. E nel mondo avrà un lugar para cada despertar. Jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Visitare una città passando per una strada, l'Avenida Rivadavia, che attraversa da nord a sud Buenos Aires, sembra interessante. In fondo, è in strada che l'umanità si mostra all'altro nel suo evolversi. È la strada, il nastro sul quale scorre il futuro. E la strada vede tutto. La strada è una presenza silenziosa. La strada è sinonimo di scambio, di apertura. La strada è l'unica scena sulla quale agiscono contemporaneamente tutti. La strada è occhi e cuore della gente. Ed è proprio lì che anche il mio cuore e i miei occhi si nutriranno oggi con le parole di Carlotto. Da questo punto di vista, la Buenos Aires è rimasta immutata. È una città antichissima, anche se in realtà non lo è, ma è una città antichissima perché ha conservato un'Europa che oggi non esiste più. E questa è una cosa incredibile. Io per esempio ricordo che quando sono andato nella parte italiana mi sono fermato perché di fronte a un panificio, l'insegna del panificio, c'era scritto Fugazza. Fugazza in Veneto è proprio la focaccia. E sono entrato e ho scoperto che in realtà non era la focaccia, era ancora un termine ancora più antico, ed era il modo in cui a Vicenza, io ho avuto un nonno che è andato in Argentina, è rimasto 12 anni, fra 1900 e 1912, e Fugazza era il termine con cui si indicava il pane. E quindi ho parlato con questo panettiere, che era di origine vicentina, in italiano, e lui mi parlava in un dialetto assolutamente puro, che oggi farebbe invidia a qualsiasi veneto. Noi abbiamo perso la metrica, abbiamo perso la capacità di raccontare una serie di vocaboli. Lui invece li aveva conservati tutti. Era un pezzo di Veneto in Avenida Rivadavia ed era una cosa assolutamente straordinaria. Un pezzo di Veneto intatto a Buenos Aires. Incredibile! Le tradizioni che uniscono anche a migliaia di chilometri di distanza. In realtà, il leitmotiv di questa strada è un altro. Il collante di tutta questa strada è il tango. Sembra una banalità, ma lo è, perché Buenos Aires in realtà è una città così vecchia che il tango, per esempio, di Osvaldo Pugliese, il tango è squisitamente italiano. Gli italiani sono andati lì e si sono inventati un blues. Erano assolutamente traditi dal destino e così terribilmente tristi che si sono inventati un blues a modo loro. È venuto fuori il tango. La musica è una contaminazione, ma i testi sono profondamente di origine italiana, anche se sono cantati in spagnolo. E questa è una cosa molto bella. Ed è il collante di questa strada, nel senso che ovunque si sente, voglio dire, questo tango che esce dalle case. Ed è il fatto che questa strada che non finisce mai dà il senso di una città che non finisce mai. Soy una estrella nel mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Buenos Aires con Massimo Carlotto. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono in Argentina, a Buenos Aires, con Massimo Carlotto. Ha deciso di farmi vedere la città attraversando una strada, l'Avenida Rivadavia, la strada più lunga del Sud America, da dove ammirare passato e presente, che da queste parti si mescolano in una magica atmosfera che non finisce mai. Buenos Aires è vero, non finisce mai. Una volta io ho scritto un testo teatrale cui il titolo era Buenos Aires non finisce mai, perché è proprio vero. Non ovunque vai, avevo avuto già questa impressione a Città del Messico, che è ancora più grande, una megalopoli anche molto più confusa, mal organizzata, ma Buenos Aires dà un altro segno, dà il segno di quanto sterminato è il paese. E quindi da Riva d'Avia tu hai l'impressione di partire ma di non uscire mai. Quanti italiani arrivati qui agli inizi del Novecento per trovare fortuna avranno avuto questa sensazione? Massimo mi spiega che anche suo nonno è rimasto in un certo senso prigioniero di Buenos Aires. Mio nonno, quando era arrivato a Buenos Aires, aveva trovato... è andato nel quartiere degli italiani. E Buenos Aires a quell'epoca era una grande bugia, perché tutti pensavano di andare nella Pampa a fare i contadini, ma nessuno poteva uscire da Buenos Aires, perché nella Pampa non c'era posto, anche se così sterminata apparteneva a così pochi che poi alla fine non c'era posto per lavorare, e quindi rimanevano tutti lì. E c'erano questi italiani che hanno veramente segnato in profondità, la seconda comunità dopo quella spagnola, hanno segnato in profondità questa città. Talmente in profondità che nelle scuole di tango si respira ancora odore di antico dopo barba. Questa città è la negazione, come ho detto prima, della modernità, ma secondo me in senso positivo. Lungo Avenida Rivadavia ci sono ogni tanto queste scuole di tango che sono diventate i luoghi dove le persone sole si incontrano. Infatti vai e vedi questi uomini che hanno il pantalone con la piega, no, a metà gamba, vuol dire i pantaloni che sono rimasti piegati in una valigia lungo, no? Che usano ancora l'acqua velva, quindi si sente questo odore di acqua velva così penetrante, e che sono 40-50 anni. Dall'altra parte c'è un universo femminile di 40-50 anni che si incontrano e attraverso il tango cercano di comunicare, no? Ed è una cosa abbastanza, voglio dire, straordinaria, e tutto si ha il segno della scuola di tango, in cui gli insegnanti di solito sono persone molto più anziane. E questo discorso della persona molto più anziana mi rilascia il fatto che la società argentina, almeno di questa strada immensa, è una infinita, è una società che si regge comunque su dei valori che da noi non esistono più, come quello della famiglia. Avenida Rivadavia è il nostro nastro trasportatore lungo il tempo alla ricerca di un passato che è presente ovunque. La famiglia, per esempio, è un valore che a Buenos Aires ancora esiste, prosegue Carlotto. C'è un altro tipo di famiglia, che è una famiglia ottocentesca. Sembra quasi che le famiglie che sono arrivate, sono sbarcate da questi piroscafi, siano rimaste tali. Raramente, voglio dire, se uno va nel centro di Buenos Aires può avere l'impressione che sia una città ultramoderna, ma è un inganno, è veramente un inganno, perché non lo è. Ed è il motivo perché io l'amo moltissimo. Io da tanti anni sogno di tornare a Buenos Aires, di rimanerci un anno e scrivere un altro romanzo, e so che raramente, cioè che è molto complicato farlo, perché dovresti trasferire famiglie, cose, eccetera, e diventa sempre più complicato. Però mi piacerebbe, perché è una città che io considero ancora a misura d'uomo, no? Dove un uomo della mia generazione ci può stare bene, anche perché la memoria viaggia attraverso, anche non può non viaggiare attraverso l'esperienza della dittatura militare. L'Argentina e la sua dittatura. Questo viaggio non poteva non fare un tuffo nella triste memoria di questo paese. dittatura militare importantissima, perché è la causa anche di questo, diciamo, interruzione di crescita di un mondo, no? Anche di un'esperienza collettiva, umana, perché Buenos Aires è stata attraversata da queste patotas, da queste squadre della morte che si occupavano di far sparire la gente. E la particolarità, no? La particolarità è che è l'unico luogo al mondo dove alla fine della dittatura non c'è stato un solo, sottolineo un solo, episodio di vendetta. Cioè la società era così penetrata dal terrore che nessuno si è... Sono state solo le donne, l'esperienza femminile di Buenos Aires, ma in generale dell'Argentina, ma soprattutto di Buenos Aires, è straordinaria, perché furono le donne a mettere in crisi la dittatura argentina, e sono le donne oggi ancora che tengono, voglio dire, che reggono il discorso sulla, su questa grande battaglia che ancora esiste per ottenere verità e giustizia su quanto è accaduto. Ma il fatto che non ci sia stata nessun tentativo indica che questa città è comunque rimasta in qualche modo ammutolita da quello che accade tanti anni fa, e in qualche modo è rimasta immobile, no? Questa immobilità è data anche da questo fatto che è una città che non riesce a fare i conti con la propria storia. Buenos Aires ha un primato assurdo. Se Freud fosse ancora tra di noi, avrebbe probabilmente uno studio in Avenida Rivadavia. Ed è, se uno va a vedere poi quello che è successo anche prima, è veramente una città che non è mai riuscita a fare i conti con la propria storia. E quindi è una città strapiena di contraddizioni, e credo che l'unico effetto che abbia portato questa... l'effetto più evidente sia il fatto che è la città del mondo con maggior numero di psichiatri. Tu cammini per Avenida Rivadavia, alzi lo sguardo e continuamente si vede la targhetta, la targa che indica lo studio di una psichiatra. Cioè è la via del mondo col maggior numero di strizzacervelli. E anche questo, voglio dire, è un segno. Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Buenos Aires con Massimo Carlotto. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Due per strada. Siamo io e Massimo Carlotto. Non una strada qualunque, ma Avenida Rivadavia, che attraversa da nord a sud Buenos Aires. È qui che sto respirando l'atmosfera di una città che non finisce mai, come l'ha definita il mio compagno di viaggio. Abbiamo fatto un tuffo nella memoria, uno nelle scuole di tango, e adesso ne facciamo uno nella cucina. È la via del mondo, secondo me. Io sono un appassionato della cucina argentina, e lì si è molto contaminata. È vero, ogni comunità ancora ha il suo modo di cucinare, e voglio dire, quelli italiani cucinano in un modo, poi lì c'è tutto, la francese, la tedesca, la turca, però a poco si stanno contaminando, per cui stanno nascendo questi stranissimi posti, ristoranti, dove si sta contaminando, e ci vanno soprattutto i giovani. Però io non riesco ad andarci. Io devo andare dove c'è la cucina argentina classica, e poi in questi bellissimi posti straordinari che si chiamano tenedor libre, che vuol dire forchetta libera, dove tu entri, paghi un tot e puoi mangiare quello che vuoi. E io scelgo quelli dove si mangia la carne. La carne in Argentina costa, voglio dire, un chilo di filetto costa come una Coca-Cola. E quindi il fatto di poter entrare in questi posti e starci tutta la sera con gli amici a mangiare non è affatto male. Mi racconta che in Avenida Rivadavia, durante la grande crisi che ha colpito l'Argentina, si è riscoperto un lato di solidarietà umana assolutamente straordinario. Perché si sono creati delle specie di ristoranti con prezzi simbolici, dove la gente del quartiere organizzava delle mense per chi non aveva soldi. Altra cosa incredibile è che in Avenida Corrientes, la strada che a un certo punto incontra Avenida Rivadavia, ci sia la miglior pizza del mondo, a detta di Carlotto. E quando gli chiedo perché, la risposta ci porta subito a un passato che ci appartiene. Perché fanno la pizza ancora come la facevano una volta, mi dice. Un altro modo di far lievitare la pasta, per cominciare. Insomma, una pizza che noi in Italia non mangiamo più da un sacco di tempo. Ma il fatto che ci sia il palazzo della pizza è una cosa abbastanza buffa. E questo dimostra che l'insensatezza della città. In fondo Buenos Aires è una città che non ha senso. Non ha senso per molti motivi, secondo me proprio perché è una città che è nata in modo caotico da un'immigrazione, da una ricchezza, ha attraversato una dimensione straordinaria dal punto di vista storico. No. Il palazzo della pizza, proprio nel paese dove la carne è la vera specialità, fa un po' sorridere. Ma anche questo fa parte della stratificazione di storie, compresa quella italiana, che fanno Buenos Aires. Junto al cachafaz, haciendo un ocho, mientras cantaba el morocho, una noche allá en Maumau. Gracias por Florida y Santa Fe. Gracias por el Maipo y el Colón. Gracias por Corrientes y Esmeralda. Y el pucherito de falda que morfé en el tropezón. Il cibo è una parte importante di Buenos Aires, prosegue Massimo, così come il tango, ma anche la cultura, visto che su Avenida Corrientes, come mi spiega lui, ci sono librerie aperte 24 ore su 24. La relazione che c'è per esempio tra cibo e città è evidente. Io, come dicevo prima, adoro questi posti invece dove si mangia le cose molto classiche della storia argentina, come il matambre, che vuol dire letteralmente ammazzafame, che è una cosa dove c'è dentro di tutto e la mangi. Oppure in Argentina la carne ha un valore così diverso dagli altri posti, dove la classica fettina impanata in realtà è un metro quadro di cosa voltato, è una cosa impressionante che non finisce più, perché lì è tutto esagerato, no? C'è questa esagerazione di fondo. Ma tornando a Avenida Corrientes arriva che a un certo punto si trovano le librerie che rimangono aperte 24 ore su 24 col caffè. E quello è un posto straordinario dove ci si infila e si passano delle giornate indimenticabili. La bellezza della Buenos Aires di oggi è che è una città che non finisce mai neanche dal punto di vista del tempo, per cui uno ci sta, sceglie dove starci e ci può stare benissimo. E può fare giri, io ho passato giornate da un caffè all'altro. Purtroppo ci sono pochi posti che bevono alcolici, ma però questo è un problema che, voglio dire, è un problema individuale, insomma, da questo punto di vista. Ed è la città dove ci sono le peggiori pasticcerie del mondo. È un dramma, infatti, è un gap culturale, secondo me. Secondo me una grande rivoluzione sociale potrebbe essere il miglioramento della qualità dei dolci, ma anche su questo invece gli argentini sono, soprattutto gli abitanti di Buenos Aires, sono convinti, dice, che sia esattamente il contrario. Dalla miglior pizza alla carne più buona. Peccato quindi solo per i dolci. Appello a tutti i pasticceri italiani che vogliono trovare fortuna in Argentina come i loro nonni. Pare che ci sia una bella fetta, neanche a dirlo, di mercato che vi sta aspettando. Noi non dobbiamo dimenticare che la terribile esperienza quando c'è stata la crisi economica degli migranti di ritorno che sono tornati in Italia, si sono trovati ad esempio in Veneto, che venivano percepiti come stranieri, e mi dicevano: ma noi siamo veneti. No, non siete veneti, siete stranieri, che siete stati in Argentina. Sì, cioè siamo tornati, e non dovevate tornare. No, era proprio questo, tanto che l'unico strumento di informazione che hanno avuto a disposizione per un aiuto è stata la radio svizzera, e quindi voglio dire, questa è stata un'esperienza di un certo tipo. La lluvia se la llevará, acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Buenos Aires con Massimo Carlotto. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Buenos Aires in Avenida Rivadavia. Massimo Carlotto è con me e ha deciso di accompagnarmi nel viaggio passeggiando lungo questa via. Scuole di tango, ristoranti a mazzafame, studi di strizza cervelli, librerie aperte 24 ore su 24, memorie di immigrazione e di dittatura. Abbiamo visto tutto quello che seduce una visitatrice alla sua prima volta come me. Un altro aspetto di Buenos Aires sono dove la dimensione turistica è completamente staccata dalla città, nel senso che è come il turista arrivasse e si trovasse un vassoio d'argento dove alcune cose sono messe lì, no? Ma in realtà non è quello, non è la città, non è la città. Ed è fondamentale, secondo me, conoscere qualcuno di Buenos Aires che in realtà te la faccia conoscere. Un aspetto straordinario, sempre di Rivadavia, che questa strada, la strada più lunga del Sud America, è che in realtà lì trovi continuamente gente che è disposta in qualche modo, non a diventare tuo amico, però condividere un pezzetto di strada, dati delle indicazioni, è gente che è incredibilmente aperta da questo punto di vista. Quindi è una città delle mille contraddizioni ed è una città che secondo me bisogna percorrere guardando per terra, guardando in aria e aprendo proprio le orecchie. Arrivano adesso una serie di consigli di Massimo che è meglio annotarsi. Andare a San Telmo e andare a visitare il circolo italiano Torquato Tasso. Il circolo italiano Torquato Tasso di San Telmo è un posto straordinario e non dirò il perché. C'è anche una scuola di tango dentro, molto particolare, molto simpatica, ma è uno di quei posti che va assolutamente visitato. Come non si può non andare in Plaza de Maggio il giovedì quando le nonne e le madri fanno la loro marcia, perché è un segno della memoria profondissima. Come non si può non andare nelle loro sedi a visitarle, nel senso che ci sono queste nonnine terribili che hanno messo a ferro e fuoco dal punto di vista morale l'Argentina con la loro forza, è incredibile. E voglio dire, conoscerle è veramente una cosa, anche quella assolutamente indimenticabile. Buenos Aires è anche la città delle donne, è vero, quelle di Plaza de Mayo, che sono diventate ormai un'istituzione, un esempio, un simbolo, l'emblema dell'amore materno che vince ogni ostacolo, che non si placa e non si arrende, assolutamente indimenticabile. Dopo aver fatto un giro in Plaza de Mayo il giovedì e uno al circolo Torquato Tasso di Sant'Elmo, dove si va adesso? E poi bisogna andare a visitare un'altra cosa importante e viaggiare lungo in metropolitana. Molta parte della metropolitana è ancora quella vecchia, la prima che hanno fatto, perché si osserva molto da vicino come la società argentina è come anche molto divisa. E poi alla fine non si può assolutamente non andare nei cimiteri. I cimiteri di Buenos Aires sono più belli al mondo, c'è poco da fare. E si va a visitare il cimitero dove c'è la tomba di Gardel con questa statua lucidissima perché è accarezzata continuamente, c'ha sempre la sigaretta in bocca accesa, anche se ieri ero a Trieste e ho visto c'è la statua di Umberto Saba e gli hanno rubato la pipa, e allora i triestini, come segno di affetto, passano e gli mettono una sigaretta. È, secondo me, è fantastica. Ho visto proprio un signore che si è fermato, ha acceso la sigaretta e gliel'ha infilata tra il labbro. La statua di Carlos Gardel con la sigaretta accesa come Umberto Saba. Bella questa immagine che unisce una volta di più l'Italia all'Argentina. Invece a Gardel gliel'ha infilato tra le dita. E le radio di tango, che sono numerosissime, la mattina dicono anche cada dia canta mejor, che vuol dire ogni giorno canta meglio. Ed è vero, Gardel è così, ogni giorno canta meglio. E anche lì Gardel ripropone quella che è l'Argentina in qualche modo. Manca ancora un luogo da vedere, anzi ancora una tomba. Del resto, in una città dove la storia si mescola così profondamente al presente, dove, se non in un cimitero, si trovano i migliori scampoli di memoria? E poi bisogna andare assolutamente a visitare il cimitero della Recoleta, dove è sepolta Isabelita Perón. E lì è un altro mondo, e bisogna girare tra le tombe e vedere. Secondo me sono molto diverse, per esempio, dei cimiteri di Parigi, no? E conosciamo bene, però lì c'è un'altra dimensione, c'è l'opulenza del Liberty, che è veramente in qualche modo straniante, però ci sono dei pezzi di storia che sono assolutamente incredibili. E c'è un culto del defunto in Argentina che è molto particolare, che anche quello è un intreccio tra varie culture che si sono trovate d'accordo in un certo modo. Un uomo, gradatamente, si identifica con la forma del proprio destino. Un uomo è, a lungo andare, le proprie circostanze. Si potrebbe sostituire la parola uomo con la parola città. E questa frase di Borges potrebbe sembrare scritta per Buenos Aires. Grazie, Massimo, per aver fatto entrare questa città anche dentro il mio destino. Poi alla fine Buenos Aires non ti esce più. E questo ti entra e non ti esce più. Non sei tu che entri e te ne vai, è lei che lo fa, è la città. E questa è una cosa molto, molto particolare. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Ora Massimo Carlotto è in libreria con Alla fine di un giorno noioso, edizioni E.O. Il farolito della calle che nasce, quel sentinela delle promesse di amor, bajo su quieta lucecita io la vi, a mi pebeta luminosa come un sol, hoy che la suerte quiere che te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide riendo al corazón.